specchi. Quando può crollare l'autostima, è una fitta pioggia di granelli. Sta così svuotando la clessidra. Io rinchiuso dentro a palmi inversi, col mio falso orgoglio made in Cina. Non mi lasciare mai, non mi tradire mai. Non puoi sentire questo vetro è tra di noi. Non mi deludere, se vuoi ascoltare, rompi il vetro e capirai. Io col mio gomitolo di dubbi, con il mio coltello in mezzo ai denti, che non vengo a capo dei miei errori, giro nella fossa i miei serpenti. E percuoto il vetro a pugni chiusi, ma il mio urlo sbatte sui riflessi. Il silenzio si volterà altrove, mentre il buio fugge tra i capelli. Non mi lasciare mai, non mi tradire mai. Questo vetro tra di noi non è infrangibile, ci puoi contare, rompi il vetro e capirai. È una tortura che si consuma in mano, un'avventura che suona piano piano. Che fortuna che abbiamo fatto bingo, abbiamo vinto al gioco. Questa partita è una scommessa. Se rimango solo, non mi tradire mai, non mi mentire mai, non mi lasciare. Questo vetro tra di noi non è infrangibile, ci puoi provare, rompi il vetro e capirai. È l'astuta mossa del pedone che ruba il cavallo alla regina, poi confessa il furto e va